punto, punto, punto e a capo. Una settimana di attualità. Una buona giornata ad Alessandra Tedesco. Andiamo a ripercorrere la settimana con alcune delle notizie più importanti. Dalla disperazione per la crisi alla protesta dei sindaci contro l'IMU, la tassa sulla casa, e poi il Premier Monti che invita i cittadini a segnalare le proprie idee su come tagliare le spese. Poi andremo ancora all'estero con le elezioni in Francia e l'anniversario dell'uccisione di Osama Bin Laden. E questa settimana, la settimana in cui è stata celebrata la festa dei lavoratori, si è venuto a sapere che a marzo in Italia il tasso di disoccupazione è salito al 9,8%. Sentiamo. 9,8%. Il livello della disoccupazione non era così alto dal gennaio 2004. In Italia a marzo c'erano quasi 23 milioni di occupati e ben 2 milioni e mezzo di disoccupati, 66 mila in più rispetto a febbraio, 476 mila in più rispetto allo scorso anno. In 12 mesi la crescita dei senza lavoro, più uomini che donne, è stata esponenziale, più 23,4%. In termini assoluti la condizione peggiore è quella della popolazione giovanile, ragazzi di età compresa fra i 15 e i 24 anni, platea con un tasso di disoccupazione al 35,9%, record assoluto dall'inizio delle rilevazioni trimestrali Istat, cioè dal 92. I dati si commentano da soli. La CGIL, in vista della giornata di mobilitazione nazionale del 10 maggio sul tema della precarietà, parla di dramma nazionale. Numeri allarmanti per la UIL che chiede venga regolato meglio l'ingresso nel mercato del lavoro per i giovani. Dati impressionanti per la leader uscente di Confindustria, Emma Marcegaglia, che chiede al governo di accelerare sui tagli alla spesa pubblica per evitare nuovi aumenti di tasse. I problemi sul mercato del lavoro, amplificati dalla crisi del debito sovrano, colpiscono tutta Europa. A marzo il tasso di disoccupazione nell'eurozona segnava 10,9%, record storico assoluto dall'aprile 97. Deborah Rosciani, Radio 24, il Sole 24 Ore. E ora sentiamo il commento dell'economista Carlo Della Ringa, intervistato da Sebastiano Barisoni in Focus Economia. Spiega come interpretare l'aumento di quasi 500.000 di disoccupati nell'ultimo anno. Sono venuti da quelli inattivi, da quelli che noi spesso diciamo scoraggiati perché non si danno molto da fare, però vorrebbero lavorare e si dice non cercano nemmeno più perché pensano di non trovare lavoro. Bene, 500.000 di quelle persone lì da 8 mesi a questa parte si danno da fare, dannatamente si danno da fare, ricercano intensamente un lavoro e l'Istat quindi non li registra più inattivi, scoraggiati, ma proprio molto incoraggiati a trovare lavoro. Che segno è questo? Di un aumento di offerta di lavoro. Va interpretato, secondo me, anche sulla base del fatto che i redditi familiari sono in grande sofferenza. In queste condizioni, quelle donne, quei giovani che fino a poco tempo fa potevano permettersi di cercare lavoro, sì, ma nemmeno molto intensamente, adesso sono con l'acqua alla gola, alla canna del gas e sono costretti a cercare il lavoro molto intensamente. Purtroppo 500.000 di questi lo cercano più intensamente, ma non lo trovano. La crisi, la disoccupazione e la disperazione di chi è in difficoltà sono stati al centro del discorso del presidente Napolitano il 1 maggio. Sentiamolo. Quegli indici rispecchiano infatti le pesanti, talvolta drammatiche, difficoltà di famiglie e imprese, di lavoratori e di giovani ancora fuori di ogni attività lavorativa. Sono realtà che nessuno può sottovalutare o considerare con distacco. Anche i casi estremi del lavoratore sull'orlo della disoccupazione o dell'imprenditore sull'orlo del fallimento che si tolgono la vita non possono non addolorarci e scuoterci. È essenziale che si rafforzi ed esprima oggi nel nostro Paese a tutti i livelli il senso di una comune responsabilità e solidarietà sociale. Punto e a capo. Torniamo a parlare di alcune delle notizie più importanti di questa settimana. Sicuramente una è stata la protesta dei sindaci contro l'IMU, la tassa sulla casa, protesta che sta crescendo. Da una parte c'è il Premier Monti che ha detto non pagare l'imposta è inaccettabile, incita all'evasione fiscale. E poi c'è anche il Ministro dell'Interno Cancellieri che ha chiesto ai sindaci di ricordare che indossano la fascia tricolore. Nonostante ciò, la protesta va avanti. Anna Marino ha raccolto i pareri di alcuni primi cittadini, ad iniziare da quello di Graziano Del Rio, sindaco di Reggio Emilia e presidente dell'ANCI, l'Associazione dei Comuni. La posizione è di chi fa i conti e vede che mancano diverse risorse del gettito immobiliare rispetto all'anno precedente, quindi siamo costretti noi, per poter salvare i servizi, ad aumentare le aliquote, lo abbiamo già fatto, aumenteremo l'aliquota sia sulla prima che sulla seconda casa, cercando di favorire gli affitti concordati, cioè quelle forme che favoriscono l'emersione dal nero, e penalizzando chi tiene le case sfitte. Stiamo parlando di un'imposta che di fatto rende più poveri i comuni e più tassati i cittadini. Per quanto riguarda la composizione dell'IMU, alcuni primi cittadini contestano il fatto che gran parte vada allo Stato. Certo, questa è la posizione della nostra associazione, cioè che appunto questa è un'imposta statale di fatto, perché anche il gettito prima casa, che viene formalmente attribuito ai comuni, ma sostanzialmente viene poi versato allo Stato, perché questi soldi lo Stato se li riprende con un taglio di oltre 3 miliardi di trasferimenti. Che cosa pensate di fare? Noi abbiamo già detto al governo nelle settimane scorse che bisognava fare il punto dopo la prima rata, perché crediamo intanto che il governo abbia sovrastimato il gettito. E per il fronte del no all'IMU anche Matteo Luigi Bianchi, sindaco leghista di Morazzone in provincia di Varese, che ha già disdetto il contratto con Equitalia, la società che riscuote le tasse per conto delle amministrazioni locali. La nostra battaglia è quella di opporci con tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione su questa tassa, che riteniamo essere una tassa ingiusta, iniqua, che va a colpire quello che è la prima casa, che noi consideriamo un'estensione naturale di qualsiasi essere umano. La prima azione che andremo a fare sarà quella di mantenere le aliquote sulla prima casa il più basso possibile, in funzione di quello che è il contesto e la realtà territoriale, sia dal punto di vista delle residenze sia dal punto di vista della composizione familiare, che appunto con simulazioni adeguate ci consentirà di definire un'aliquota tale per cui le famiglie sulla prima casa non pagheranno praticamente nulla, mettendo in garanzia quello che è il contribuente, che non rischierà assolutamente nulla, e certo se ne farà carico l'amministrazione comunale, che dovrà essere così brava da cercare di trovare delle economie all'interno del proprio bilancio per far fronte a quello che sarà l'ammanco dell'introito dell'IMU sulla prima casa. Ci sarà appunto un problema di fondi per quanto riguarda le comunità locali? Questo è un problema che sicuramente sarà importante. Il processo del federalismo fiscale non può essere accantonato assolutamente. Che cosa proponete diversamente? Lo Stato deve fare tutto ciò che stanno facendo i piccoli comuni, soprattutto alle nostre latitudini, che è quello di andare a incidere sulla spesa pubblica. E ora sentiamo anche il parere del sindaco uscente di Genova, Marta Vincenzi. Olimo diventa l'occasione per i comuni di poter chiamare le comunità che i sindaci, le amministrazioni rappresentano, a un vero principio di responsabilità, cioè a decidere, a scegliere insieme. Deve essere in questa fase difficilissima per il Paese il contributo che ciascuno di noi deve dare per uscire dalla pesantezza di questa crisi, e quindi si possono inserire parametri di diversificazione città per città, secondo della situazione, del livello di indebitamento dei comuni, della qualità della spesa pubblica. Se si usano i comuni per farli fare i gabellieri e senza indistinzione, riproponendo una impostazione simile a quella dei tagli lineari, credo che la partita non si riesca a vincere. Secondo lei l'IMU deve essere completamente rifiutata oppure dovrebbe essere modificata a favore dei comuni? Non ho mai detto che deve essere completamente rifiutata. Io sono d'accordo con il Premier, con Monti, quando dice che il problema fu a suo tempo, e parliamo del 2008 e della vittoria del governo Berlusconi con i suoi alleati, e quindi anche con partiti come la Lega, che adesso invece invitano a non pagare. Io sono d'accordo con lui quando dice che il problema è nato dall'aver tolto l'ICI. Infine, ancora sull'IMU, il sindaco di Milano Giuliano Pisapia, intervistato sempre da Anna Marino. Io penso che l'IMU, così come è stata strutturata dal decreto Salva Italia approvato dal Parlamento, dalla maggioranza parlamentare, è sbagliata, ingiusta, ingiustificata e ha anche evidenti profili di incostituzionalità, perché prevede che un'imposta municipale, così come ha deciso la Costituzione che ci fosse, comportasse che una parte dei proventi di questo tributo andassero al governo. Preso atto di questo dato di fatto, io credo che bisogna fare di tutto, impegnarsi perché il governo cambi rotta, cambi strada, anche perché strangolare i comuni significa strangolare coloro che danno una risposta ai bisogni primari dei cittadini. Come fare per ridurre l'impatto dell'IMU o proporre un'alternativa? L'alternativa è molto chiara, che se il governo vuole, ha necessità di avere a propria disposizione, il Parlamento di avere a propria disposizione quelle somme per sanare il Paese, faccia una tassa autonoma, che può essere tassa di scopo, che può essere un altro tipo di tassa, ce ne sono purtroppo tantissime, e ci metta la faccia e non faccia sì che invece i sindaci diventino gli esattori del governo, per cui i cittadini pensano che quella tassa o l'introito di quel tributo vadano per i servizi dei cittadini, mentre invece i sindaci o gli amministratori locali non vedono neppure una parte di quell'importo. La grande mobilitazione dell'ANCI, che sfocerà in una manifestazione a Venezia in questo mese, potrà dare una sveglia al governo su un tema delicato, che non significa evasione fiscale, anzi bisogna combatterla, e quindi non significa neppure violare le leggi, ma significa spingere affinché ci sia equità fiscale e quindi equità sociale. Alcuni sindaci pensano alla disobbedienza fiscale, lei cosa ne pensa? Io credo che un sindaco rappresenta le istituzioni a livello locale e non può commettere reati o avere comportamenti illegali, anzi il sindaco deve dare l'esempio. Questo riguarda anche i sindaci leghisti che hanno annunciato disobbedienza appunto fiscale? Ma io questo non lo capisco, perché la Lega è stata al governo fino a pochi mesi fa e mi sembra che sia una dei partiti e delle forze politiche responsabile del disastro in cui ci siamo trovati, e quindi è troppo facile fare adesso azioni propagandistiche, illegittime e illegali. Doveva pensarci prima, adesso credo che debba impegnarsi insieme all'ANCI affinché si modifichi una legge che anche loro ritengono errata. Ognuno si assume le proprie responsabilità e la Lega è l'ultima che può dire una parola su questo tema, visto che se ci troviamo in questa situazione sono quantomeno corresponsabili. Punto e a capo. Una delle vicende della settimana è stata senz'altro quella avvenuta a Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo. Giovedì un uomo si è barricato nella sede dell'Agenzia delle Entrate minacciando di uccidersi perché in crisi economica. Sentiamo com'è andata nel servizio andato in onda ieri. Dopo una notte passata nella caserma dei carabinieri è stato trasferito in carcere a Bergamo Luigi Martinelli. Dietro quello che sembra un gesto di protesta estremo contro il fisco ci sarebbero difficoltà economiche. Armato di fucile e pistole, l'imprenditore di 54 anni ieri ha tenuto in ostaggio un impiegato dell'Agenzia delle Entrate di Romano di Lombardia nel Bergamasco. Solo dopo 6 lunghe ore di tensione un vice brigadiere dei carabinieri, Roberto Lorini, è riuscito a convincerlo ad arrendersi. Mi ha preso in simpatia, forse, non so come dirlo, ma però abbiamo parlato. Io ho cercato di convincerlo, ho cercato di dire: guarda che alla fine siamo qui in tre, ma siamo tre amici. Consideriamoci tre amici e così lo rimarremo sempre. Martinelli è ora accusato di sequestro di persona. Il presidente del Consiglio Monti era disposto a parlare con lui, ha fatto sapere stamattina il procuratore di Bergamo, Massimo Meroni. Sembrerebbe che questa persona avesse un debito nei confronti del fisco non superiore ai 1.000 euro. Per carità, non che siano noccioline, ma insomma certamente non giustificherebbero nessuna forma di particolare disperazione. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Punto e a capo. Ancora una buona giornata da Alessandra Tedesco. Stiamo facendo un po' una carrellata su alcune delle notizie più importanti di questa settimana. Ora andiamo all'estero, perché domani si vota in Francia per il secondo turno delle presidenziali. Lo scontro è fra il presidente uscente Sarkozy e lo sfidante socialista Hollande. Lo scontro tra Nicolas Sarkozy e il candidato socialista François Hollande per la corsa all'Eliseo è alle battute finali e nei pronostici dei bookmaker Hollande sembra sempre più vicino alla vittoria. Viene dato al 53% rispetto al 40%. 2017 di Sarkozy. Quest'ultimo non avrà né il supporto dell'estrema destra capeggiata da Marine Le Pen, che ha annunciato l'astensionismo, né quello del centrista François Bayrou, per il quale la campagna elettorale di Sarkozy è stata violenta, antieuropea e troppo orientata a destra, e per questo motivo ha deciso di sostenere Hollande. François Hollande, c'est le choix que je fais. S'est prononcé de manière claire sur la moralisation de la vie publique dans notre pays, il aura fort à faire. Sarkozy vede così allontanarsi definitivamente una rimonta apparsa subito difficilissima. Durante una trasmissione televisiva su Canal Plus ieri sera, il presidente uscente ha ribadito che se Hollande vincerà domenica ne trarrà le conseguenze. Ma sulla presa di posizione del candidato centrista ha commentato così: François Bayrou ha il diritto di fare la sua scelta, ma nel 2007 lanciò l'appello a votare contro di me ed io vinsi lo stesso. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora andiamo in Etiopia, dove in questa settimana si è recato il ministro degli esteri Terzi. Ce ne parla il nostro inviato appunto in Etiopia, Gigi Donelli. Sanità, cooperazione economica e commerciale, ma anche impresa, grandi progetti infrastrutturali da realizzare in un paese ancora gravemente arretrato. Ad Addis Abeba, capitale dell'Etiopia ma anche sede dell'Unione Africana, oggi si tocca con mano l'ambizione di un paese che, pur essendo tra i più poveri del pianeta, svolge ormai un ruolo di crocevia continentale sul fronte diplomatico e commerciale. Mercoledì in città è arrivato per la sua prima visita nel Corno d'Africa il ministro degli esteri italiano Terzi, che al termine di un incontro con il primo ministro etiope Meles Zenawi ha spiegato quali sono le possibilità di sviluppo dei rapporti tra i due paesi. Nessun paese come l'Italia conta per l'Etiopia, e l'Italia può avere un ruolo guida nel Corno d'Africa. Queste sono le parole testuali che mi ha espresso il ministro degli esteri, sono concetti sui quali è tornato il primo ministro Meles Zenawi. Un'azione che si estende alla dimensione economica. Ci sono delle prospettive molto considerevoli in settori come le infrastrutture, le materie prime, la trasformazione di prodotti di base, l'agroindustria, le costruzioni delle grandi opere del settore idroelettrico. 1 miliardo di abitanti, certo, molta povertà ma anche crescita e trasformazioni tumultuose in un mondo consapevole dello straordinario patrimonio di risorse umane e materiale di cui il continente dispone. 54 nazioni africane che oggi si riuniscono nel nuovissimo palazzo dell'Unione Africana di Addis Abeba, spettacolare simbolo delle ambizioni del paese, ma anche della strategia efficiente della Repubblica Popolare Cinese, che l'ha finanziato e costruito in un solo anno. Pur essendo il primo donatore netto del continente, l'Unione Europea fatica invece ad affermare una posizione comune, e l'ex presidente della Commissione Europea Romano Prodi, nella sua veste di presidente della Fondazione per la collaborazione tra i popoli, che dell'Africa si occupa sistematicamente, lancia un allarme. Ma l'Europa è in fondo il più grande donatore in Africa, ma i paesi europei svolgono una politica parziale, i francofoni, i francesi con la francofonia, gli inglesi con l'anglofonia, poi gli Stati Uniti con i loro paesi amici, e ci troviamo nell'assurdo, nel fatto storicamente incredibile che l'unico paese che ha una politica continentale in Africa è la Cina. Allora è inutile che noi ci mettiamo a fare sogni. O l'Europa si mette assieme e fa una politica comune, oppure non c'è da fare, l'unica politica unificante la fa la Cina, con risultati enormi dal punto di vista delle prospettive. C'è poi un altro capitolo di questa settimana vista dall'Etiopia, dal Corno d'Africa, che racconta invece come 20.000 italiani stiano sostenendo attraverso il QAM, Medici con l'Africa, un progetto sanitario ambizioso, un progetto che in 10 anni si è affermato come un vero e proprio modello per il miglioramento delle condizioni di vita di milioni di persone. Una storia di bene ostinato che vi racconto questa sera a 30 minuti in cronaca a partire dalle 19:30. Punto e a capo.

Si è riaperto in Italia il dibattito sulla vivisezione dopo che 12 persone sono state arrestate in flagranza di reato dopo il blitz animalista contro Green Hill, un allevamento di cani beagle per la vivisezione che si trova in provincia di Brescia. Nella trasmissione 24 Mattino, Alessandro Milan ha sentito i pro e i contro alla vivisezione. Il professor Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Istituto Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano. Ci sono fondamentalmente due tipi di ricerche che si fanno sugli animali. Una, come ha detto lei all'inizio, è la sperimentazione sui farmaci e in questo caso gli animali subiscono le stesse sofferenze che subiscono gli uomini quando prendono una pastiglia per bocca o uno sciroppo oppure quando gli viene somministrato un farmaco endovena o attraverso una flebo. E poi ci sono delle attività chirurgiche che si fanno sugli animali. In questo caso gli animali vengono trattati esattamente come l'uomo. Noi per esempio facciamo nei topi il trapianto di rene per provare il modo di consentire all'organismo di tollerare l'organo senza farmaci antirigetto. Questa chirurgia viene fatta in anestesia generale perché si immagini lei se sia mai possibile operare un animale che soffra, quindi il termine vivisezione è assolutamente improprio, l'animale non deve soffrire per definizione, se no il risultato dell'esperimento però, sarebbe... Diciamo, vengono provate, mi permetta di usare termini non scientifici, vengono provate delle tecniche prima sugli animali per vedere se poi possono essere anche utilizzate per gli esseri umani. Questo aspetto che pone un po' la contrapposizione, meglio salvare un umano piuttosto che un animale o meglio provare sull'animale per poi salvare un umano, a lei piace questa impostazione o un'impostazione corretta o sbagliata? Ma guardi, c'è un limite a tutto il ragionamento che le posso fare io durante questa trasmissione ed è quello: se noi consideriamo che un uomo sia uguale a un cane, a un ratto, a un topo, a un insetto, allora il mio ragionamento cade tutto. Ma se noi pensiamo che l'uomo sia diverso dal cane, dal gatto, dal topo, dal ratto e dall'insetto, allora dobbiamo incominciare a ragionare se non è il caso di sperimentare delle tecniche anche chirurgiche su un animale prima di provarle su un bambino. Il parere contro invece è quello di Michela Kuan, responsabile nazionale del settore vivisezione per la LAV, la Lega Antivivisezione, sempre al microfono di Alessandro Milan. Le considerazioni che vorrei fare sono principalmente due. Innanzitutto, gli animali non vengono trattati come gli esseri umani nei test di laboratorio, questo è ben lontano dalla realtà che qualsiasi filmato che è riuscito a entrare all'interno del laboratorio ha potuto riprendere. Gli animali sono costretti fisicamente, violentati psicologicamente ogni giorno all'interno delle gabbie e subiscono atroci sofferenze e sono non parole di un animalista ma di una biologa che ha potuto leggere le sperimentazioni autorizzate dal Ministero della Salute da anni, che appunto rilascia autorizzazioni per sperimentazioni molto invasive che comportano anche sperimentazioni senza anestesia dove l'animale è completamente vigile, gli vengono impiantate elettrodi nel cervello, viene continua a essere fatta vivisezione e quindi purtroppo l'immaginario dello sabulario è ben lontano da quello che citava prima il professor Remuzzi. La seconda considerazione che vorrei fare è che la domanda di base è sbagliata, non si può paragonare il valore della vita umana a quell'animale, non è questo quello di cui dobbiamo parlare. La sperimentazione animale è un fenomeno che coinvolge ancora moltissimi animali, circa 12 milioni soltanto in Europa e in condizioni pessime e purtroppo è basata su una ricerca che non serve all'uomo. Il modello sperimentale basato sull'animale non può essere attendibile, come lo dimostrano moltissime pubblicazioni scientifiche di cui purtroppo nessuno parla e hanno un alto indice fallimentare. Sì. Cioè non è che dobbiamo dire l'uomo è più importante e quindi è giustificabile sperimentare su animali. Il principio, quindi il presupposto di partenza che sia utile è da cambiare completamente. Punto e a capo. Fra le notizie della settimana sicuramente il primo anniversario dall'uccisione di Bin Laden il 2 maggio. Bin Laden era stato individuato e ucciso in un raid dei corpi speciali della Marina americana, i Navy SEALs, in una località di nome Abbottabad, in Pakistan. Il suo corpo era stato trasportato su una portaerei e quindi sepolto nel Mar Arabico settentrionale, perché nessuno ne avrebbe ospitato le spoglie, dissero gli americani. I pakistani non sapevano nulla, né di Bin Laden sul loro territorio, né del raid, entrambe versioni ufficiali della primora. Poi ci furono molte ritrattazioni.

everything just don't seem the same. They're acting funny, but I don't know why. Excuse me, while I kiss the sky. Il clou con Mauro Pagani ed Elisa, ma anche Caparezza, gli After Hours, Marina Rei. A voi che siete qui per manifestare e lottare per l'articolo 4 della Costituzione italiana, per il diritto al lavoro di ogni cittadino. A voi il nostro grazie e il nostro applauso. Ho bisogno del vostro aiuto per questa canzone. Dimmi delle vostre mani che tengono. È importante che la festa continui, hanno sottolineato i leader dei sindacati, nonostante la disoccupazione crescente e le morti sul lavoro. Tanti momenti dedicati a questo dramma, come l'esibizione del Teatro degli Orrori. Vorremmo dedicare tutta quanta la tristezza, l'angoscia che c'è dentro questa canzone, alle morti bianche sul lavoro, che sono uno scandalo per il paese tutto. Uno scandalo che non grida vendetta, ma grida giustizia, Dio santo. Hai sentito di Tom, Tom che se n'è andato via. Questo non è uno scherzo. Eugenio Finardi ha ricordato come la crisi colpisca anche gli artisti e come sia necessario ritrovare i veri valori. Bisogna trovare un senso che rimetta l'uomo al centro e non il profitto a tutti i costi, anche perché è il profitto di pochissimi. Lunedì è stata celebrata per la prima volta nel mondo la giornata internazionale del jazz, proclamata dall'UNESCO. Adriana Fracchi ha intervistato uno dei jazzisti italiani, fra i più noti anche all'estero, Stefano Bollani. Nel jazz ci sono pochi canoni e quindi una musica è anche un mondo piuttosto libero ed è anche il motivo per cui io mi sono avvicinato a questa musica. Da bambino ovviamente ero innamorato dei suoni e quando poi ho cominciato a intravedere il mondo che c'era dietro mi sono innamorato anche dei musicisti e del modo in cui vedevano le cose. Ecco, e siamo in tempi di crossover, dove varie forme musicali appunto si contaminano l'un l'altra. Non mi piace molto quella parola lì perché sa di malattie di ospedali, la contaminazione, però insomma credo che sia giunto il momento di capire che i generi musicali servono per poter parlare di musica. Dobbiamo formare un pubblico più che formare dei musicisti, mentre in Italia, come in pochi altri paesi al mondo, si formano solamente i musicisti. Se uno vuole si iscrive al conservatorio, ma è una scelta che devi fare da ragazzino col bene placito dei genitori, nel senso che devi decidere proprio già a 14 anni di fare musicista di professione. Se non fai il conservatorio nessuno ti parlerà di musica. Della giornata che l'UNESCO ha dichiarato giornata internazionale del jazz, facciamo uno speciale del programma su Rai 3 per ricordare l'evento. Stavolta siamo alle 10:15, colpo di scena per cui spaventeremo qualche bambino in più. C'è stata un'asta record questa settimana per uno dei 4 quadri di Munch chiamati L'Urlo, l'unico ancora ad essere in mano privata. Con 119,92 milioni di dollari, l'unica versione ancora in mano privata dell'Urlo di Munch è diventata l'opera d'arte più costosa mai battuta all'asta. La trattativa è durata appena 12 minuti da Sotheby's a New York, con rilanci a volte di oltre 10 milioni al minuto. 7 acquirenti da tutto il mondo, ovviamente anonimi, si sono contesi il pastello, dipinto dall'artista norvegese nel 1890. E che partiva da 80 milioni di dollari. Munch straccia così nomi come Picasso, gli impressionisti e Van Gogh e conferma l'arte come occasione non soltanto di godimento intellettuale ma anche opportunità di grandi investimenti con guadagni sicuri, in apparente contrasto con un momento di grande crisi economica come l'attuale. Lo conferma Vanda Rotelli Tarpino di Sotheby's Italia. Lo è sempre stato anche questo, voglio dire. Naturalmente c'è un mercato di fascia media e c'è un mercato di fascia altissima come questo del pastello di Munch. Chi investe bene non perde assolutamente. Il problema è che bisogna comprare innanzitutto opere che abbiano un'autenticità, poi di buona provenienza, che sono poi tutte caratteristiche che formulano un prezzo di partenza. E poi è effettivamente il mercato che stabilisce l'aggiudicazione. Paolo Panceri, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Prima di chiudere vi ricordo che sarà un sabato sera speciale quello di oggi per Radio 24, che festeggerà la Notte Verde del Nord-Est, iniziativa dedicata alla Green Economy e che fa parte del Festival Città Impresa. In diretta questa sera dalle 21 alle 23 con Laura Bettini, collegamenti con le numerose città sparse fra Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, che con varie iniziative partecipano a quella che sarà la più grande festa dell'economia sostenibile in Italia. Ci sarà il microfono aperto anche per gli ascoltatori, quindi potete intervenire numerosi. Ed è tutto per questa edizione di Punto e Capo. Grazie in regia Valeria Bernardi. L'appuntamento è per sabato prossimo. Una buona giornata da Alessandra Tedesco.